Il tema della morte è stato ignorato per molto tempo, perché la nostra società si interroga su come vivere bene e dà per scontato che sia giusto così, mentre ignora tutto del morire. È necessario che gli uomini maturino in se stessi la consapevolezza filosofica della morte. Mi chiedo quali prospettive possa avere, anzi come farebbe ad esistere, una società che davanti ad una morte violenta ed improvvisa non sappia cosa fare. Takeshi Kitano. Da lungo tempo la morte rossa devastava il paese. Nessuna pestilenza era mai stata così fatale, così spaventosa. Il sangue era la sua manifestazione, il suo sigillo, il rosso e l'orrore del sangue. Provocava dolori acuti, improvvise vertigini, poi un abbondante sanguinare dai pori e infine la dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e soprattutto sul volto delle vittime erano il marchio della pestilenza che le escludeva da ogni aiuto e simpatia dei loro simili. L'intero processo della malattia, l'attacco, l'avanzamento e la conclusione duravano non più di mezz'ora. Ma il principe Prospero era felice, coraggioso e sagace, e quando le sue terre furono per metà spopolate, egli convocò un migliaio di amici sani e spensierati, scelti fra cavalieri e dame della sua corte, e si ritirò con loro in totale isolamento in una delle sue roccaforti. Era una costruzione immensa, magnifica, una creazione che corrispondeva al gusto eccentrico e alla grandiosità del principe. Un muro forte ed altissimo la circondava. Nel muro le porte erano di ferro. Una volta entrati, i cortigiani presero incudini e martelli massicci e saldarono le serrature. Impedivano così ogni possibilità di entrata o di uscita per improvvisi impulsi di disperazione o di frenesia che potevano nascere in chi era dentro le mura. La fortezza era ampiamente fornita di vivoli. Con tutte queste precauzioni, i cortigiani potevano permettersi di sfidare il contagio. Il mondo esterno provvedesse a se stesso. Era tutto sommato follia addolorarsi o pensarci troppo su. Il principe aveva pensato a tutti i divertimenti possibili. C'erano buffoni, improvvisatori, ballerini, musicanti, bellezza e vino. Tutto chiuso là dentro. Fuori c'era la morte rossa. Fu verso la fine del quinto o sesto mese di questo isolamento, mentre la pestilenza tutt'intorno infuriava al massimo, che il principe Prospero pensò di divertire i suoi mille amici con un ballo mascherato di un insolito splendore. Fu una messa in scena voluttuosa questa mascherata. Innanzitutto, però, vorrei descrivere le stanze in cui si svolse. Sette stanze formavano un unico maestoso appartamento. In molti palazzi simili fughe di stanza aprono ad una veduta lunga e diritta, con le porte a due battenti che si aprono verso le pareti permettendo di vedere tutto in un solo colpo d'occhio. In questo caso invece la situazione era differente, come d'altronde ci si poteva aspettare dall'amore del principe per il bizzarro. Le camere erano disposte così regolarmente da poter essere viste soltanto una alla volta. C'era ogni 20 o 30 metri un'improvvisa svolta che apriva di conseguenza prospettive sempre diverse. A destra e a sinistra, nel mezzo delle pareti, un'alta e strettissima finestra gotica dava su un corridoio chiuso che seguiva le tortuosità dell'appartamento. In my bedroom, there's baby. Queste finestre, di vetro lavorato, variavano di colore secondo la tinta dominante delle decorazioni di ogni singola stanza. Quella situata all'estremità orientale aveva nella decorazione una forte dominante blu, e blu erano le finestre. Negli ornamenti e nelle tappezzerie della seconda stanza predominava il purpureo, e purpuree erano le vetrate, tutta verde la terza, altrettanto le finestre. La quarta arredata in arancione, e così anche illuminata dello stesso colore, la quinta di bianco e la sesta di violetto. La settima stanza, invece, era tutta avvolta in arazzi di velluto nero che pendevano dal soffitto e dalle pareti, ricadendo su tappeti della stessa stoffa e colore. Era soltanto in quella stanza che il colore delle finestre non corrispondeva a quello delle decorazioni. Le vetrate erano di un colore scarlatto, di un cupo color sangue. Ebbene, nessuna delle sette stanze con le loro decorazioni, pur ricca di ornamenti d'oro, era illuminata da lampade o da candelabri. Non vi era luce di alcun genere proveniente da candele o lampadari in questo succedersi di sale. Ma nei corridoi che accompagnavano le stanze erano appoggiati pesanti tripodi che sostenevano bracieri accesi che, proiettando la loro luce raggiante attraverso il vetro colorato, illuminavano così in modo abbagliante le sale. Questo produceva un'infinità di immagini fantastiche. Ma nella stanza nera, quella d'occidente, l'effetto della luce e del fuoco che si diffondeva sui drappi neri attraverso le rosse vetrate era talmente spettrale e produceva un tale effetto irreale sulle fisionomie di chi entrava che nessuno aveva il coraggio di mettervi piede. In questa sala si trovava pure, appoggiato contro la parete, un gigantesco orologio d'ebano. Il suo pendolo emetteva un suono cupo e monotono, e quando la lancetta dei minuti compiva il giro del quadrante e batteva l'ora, veniva fuori dai suoi polmoni di bronzo un suono chiaro, forte e profondo, straordinariamente musicale, ma di una tale forza che a ogni ora i musicisti dell'orchestra erano costretti a fermare l'esecuzione dei loro pezzi per ascoltare quel suono, e così anche le coppie interrompevano le danze e su tutta l'allegra compagnia cadeva un velo di tristezza. E mentre l'orologio scandiva ancora i suoi rintocchi, si notava che più spensierati impallidivano e più vecchi e sereni si passavano una mano sulla fronte in un gesto di confusa visione o di meditazione. Ma non appena questi rintocchi tacevano, tutti erano subito presi da un sottile riso. I musicanti si guardavano fra loro e sorridevano quasi imbarazzati del proprio nervosismo. E si promettevano che al prossimo scoccare della pendola non li avrebbe più messi tanto a disagio. Ma poi, dopo 60 minuti, che sono esattamente 3600 secondi del tempo che fugge, quando tornavano a risuonare i rintocchi dell'orologio, cresceva in loro lo stesso stato di smarrimento, tremore e meditazione. Nonostante tutto questo, la festa era allegra e incantevole. I gusti del principe erano davvero squisiti. Aveva in particolare occhio per i colori e per gli effetti. Disprezzava le facili decorazioni in voga. I suoi progetti erano avventurosi e bizzarri e la loro ideazione era illuminata da incandescenze quasi barbare. Qualcuno avrebbe potuto giudicarlo pazzo. I suoi seguaci però intuivano che non lo era affatto. Bastava stargli vicino ed ascoltarlo per assicurarsi del contrario. Era stato in gran parte lui stesso a sovrintendere alle decorazioni delle sette stanze in occasione di questa grande festa ed era stato senz'altro il suo gusto personale a caratterizzare le maschere dell'intera compagnia. Credete, erano davvero grottesche, di splendore e lucentezza, di intensità e fantasticheria. Ce n'era tanto quanto poi se ne sarebbe visto nell'Ernani. Vi erano maschere arabesche, maschere totalmente in contrasto con i corpi che le portavano, fantasie assurde che soltanto un pazzo poteva aver inventato. Vi si trovavano in gran copia bellezza, lascivia e bizzarria, insieme terrore, e nulla che potesse suscitare disgusto. E difatti nelle sette stanze si muoveva una moltitudine di sogni, e questi sogni si intrecciavano, assumendo colore delle stanze e dando la sensazione che la musica ossessionante dell'orchestra fosse soltanto l'eco dei loro passi. E poi, ancora l'orologio d'ebano nella sala di velluto che batte tutte le ore pietrificando per un attimo i sogni. E cade il silenzio e l'immobilità e si sente soltanto l'orologio. Ma l'eco dei rintocchi si estingue lentamente, ancora una volta non sono durati che un istante e un riso represso flutto all'inseguo mentre svaniscono. Torna la musica, i sogni riprendono vita, si incrociano e si uniscono ancora più ardentemente, illuminati dai raggi del fuoco dei tripodi attraverso il vetro colorato. Ma verso la camera più occidentale nessuna maschera osa avventurarsi. Ora che la notte avanza e dalle vetrate sanguigne viene una luce più rossiccia e la cupezza dei drappeggi scuri spaventa più che mai. Chi posasse il piede sul tappeto nero sentirebbe il rintocco vattato dell'orologio vicino, ancora più solenne e nello stesso tempo più vigoroso di quanto possano sentirlo le orecchie di coloro che indugiano nei più remoti divertimenti delle altre sale. Ma queste sale erano densamente affollate, in esse pulsava febbrile il cuore della vita. La baldoria andò avanti ancora più frenetica, finché risuonarono i primi rintocchi della mezzanotte. La musica cessò. Come ho detto, i primi rintocchi della mezzanotte fecero cessare la musica. I ballerini si interruppero e vi fu, come prima, una pausa generale, inquieta. Questa volta però i rintocchi erano 12 e accadde che il tempo a disposizione per lasciarsi andare a contemplazioni e pensieri fosse più lungo. E per questo forse, prima che l'ultima eco si dileguasse, più di uno della compagnia ebbe occasione di notare una figura mascherata che fino ad allora era sfuggita all'attenzione. E quando la notizia della presenza di questo personaggio si diffuse fra i presenti, si levò un bisbiglio, un mormorio, dapprima di disapprovazione e sorpresa, ma alla fine di spavento, orrore e disgusto. In una mascherata come quella appena descritta, si può immaginare che non poteva essere un'apparizione normale a suscitare tutto questo trambusto. Alla fantasia e al capriccio delle maschere erano state fatte illimitate concessioni, ma la persona in questione aveva superato Erode e oltrepassato anche i limiti della stravaganza del principe. Anche nei cuori dei più sfrenati ci sono corde che non possono essere toccate senza dare forti emozioni. Persino per i più cinici, per i quali la vita e la morte sono oggetto di beffa, esistono cose su cui non si può scherzare. Era ovvio ormai che tutta la compagnia sentiva profondamente che nel costume e nel comportamento dell'individuo non vi erano né umorismo né dignità. La figura era alta ed ossuta ed era coperta dalla testa ai piedi dei vestimenti per i defunti. La maschera che portava sul viso era talmente simile all'aspetto di un cadavere irrigidito che anche l'occhio più accorto avrebbe avuto difficoltà a scoprire l'inganno. Eppure tutto questo avrebbe potuto essere sopportato, se non approvato, dai pazzi festaioli tutti intorno, ma l'individuo aveva avuto il coraggio di mascherarsi a guisa di morte rossa. Le sue vesti erano fradicie di sangue e anche la sua faccia dall'ampia fronte era cosparsa dell'orrore scarlatto. Quando gli occhi del principe Prospero caddero per la prima volta su questa immagine lugubre, sul suo viso sconvolto si disegnarono terrore e disgusto. Subito dopo, avvampò di rabbia, avvampò di rabbia, subito dopo, avvampò di rabbia. Chi osa? Domandò con voce rauca ai cortigiani più vicini. Chi osa insultarci con questa bestemmia? Prendetelo e smascheratelo, e che si sappia che impiccheremo all'alba sui bastioni del nostro castello costui. Mentre pronunciava queste parole, il principe Prospero si trovava nella sala orientale, cioè nella sala blu, e la sua voce risuonò alta e chiara per le sette sale, poiché il principe era fiero ed energico e, ad un cenno della sua mano, l'orchestra s'era taciuta. Era nella stanza blu che si trovava il principe, circondato da un gruppo di cortigiani impalliditi. Al suo parlare, dapprima i cortigiani fecero l'atto di scagliarsi contro l'intruso, che in quel momento si trovava nei pressi e che ora si stava avvicinando maestosamente al principe, con passo lento e deciso. Ma per l'indicibile terrore che la folla messa in scena della maschera aveva suscitato nell'intera compagnia, nessuno sa afferrarlo, e così passò indisturbato vicino al principe. E mentre la folla si allontanava di scatto, come colta da un comune impulso, dal centro delle stanze si appiattiva alle pareti, presa da una paura incontrollabile, costui continuò ad avanzare con quel suo passo solenne e misurato che lo aveva distinto sin dall'inizio, senza incontrare ostacoli da una sala all'altra. Attraversò la sala blu, la sala purpurea e passò anche a quella verde, dalla sala verde a quella arancione e poi alla bianca, e da questa si spinse anche nella sala violetta, prima che fosse fatto un solo tentativo di arrestarlo. Fu in quel momento però che il principe Prospero, furioso anche della propria momentanea vigliaccheria, si precipitò attraverso le sei stanze, senza che nessuno dei suoi lo seguisse per il folle terrore che li paralizzava. Impugnava una daga e di impeto si era avvicinato alla figura che si ritirava ed era già a pochi passi quando questa, giunta all'estremità della stanza di velluto, si girò di scatto verso il suo inseguitore. Si sentì un grido straziante, la spada cadde scintillando sul tappeto nero, sul quale subito dopo si accasciò morto il principe Prospero. Con il coraggio della disperazione, un gruppo di gaudenti si precipitò nella sala e afferrò il mascherato, la cui alta figura stava maestosamente immobile nell'ombra della pendola d'ebano. E fu allora che con un gemito d'orrore si accorsero che le vesti funerarie e la maschera di cadavere che avevano afferrato con tanta violenza non contenevano alcuna forma tangibile. E allora si seppe che la morte rossa era là e tutti la riconobbero. Era arrivata come un ladro nella notte. Uno dopo l'altro caddero i festanti nelle sale ormai invase di sangue. Morivano così, nella disperazione. E quando l'ultimo morì, anche l'orologio d'ebano tacque e le fiamme dei tripodi si spensero. E il buio, il disfacimento e la morte rossa dominarono indisturbati su tutto.